Casa di Frega. Ciao fra. Stavo parlando, sono la prima. Poi vai. Ebbene già, come? E così dai. Ci va avanti. È meglio così. E infatti. Dopo tutta la sera che non entra nessuno, boh, chiamato, richiamato, boh. Aspetta che metto le cuffiette tra te. Sì, sì, sono qua, sono qua. Come qua? È positivo. Non c'è nessuno? Ah, non c'era nessuno stasera. Sono entrato 3-4 volte, era sempre libero, sempre vuoto. Sì, saranno stati in ascolto. E guarda che io ieri sera sono entrato e sono stati 10 minuti, un quarto d'ora con Franco e con Giulio, però poi non si è sentito nessuno fino a ieri notte. Ieri notte chi è entrato? Ieri notte ce l'avamo io, Tino, Giulio, Antonello, Pomponio e non lo ricordo. Comunque eravamo in 4 e 5. Sì. Cappagà, va bene. E comunque già va bene così, dai, quando c'è molta gente si sta bene, va bene. Sì, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Tu sei entrato ieri notte? No, ieri notte no. Stavo guardando chi l'ha visto. Ah, ho capito. Ho capito. Mi piace, anche se sono sempre solite cose, ma è cronaca, quindi la cronaca mi piace. Sì, infatti, no, io vabbè non ne guardo di quei programmi lì, eh. A me non piacciono, neanche Grande Fratello, queste cose qua non mi fanno. Io seguo molto programmi di, diciamo, di politica, quelli Quarta Repubblica, Del Debbio, poi seguivo molto Paolo Giordano, queste cose qua già le guardo. Ma parole, non ha niente a che fare chi l'ha visto con Corsa, con Grande Fratello, sono cose totalmente diverse, sono fatti di cronaca, di gente che sparisce, di queste cose qua. Io prima te li guardavo quei programmi, poi mi hanno un po' rotto. Vedevo solo gente che bla bla bla, parlava, poi in concreto non fa niente. E infatti mangiano assieme, ma si negava la rinuncia, da voi c'erano assieme, vabbè. Però, anche i giornalisti adesso fanno solo audience e basta. Mi ha fatto ridere Sgarbi quando è invitata Giordano. Sgarbi è un pazzo scatenato, lui mi fa morire. Io l'avevo vista a Portottone con due stangone alla festa di San Gavino. Stavo facendo servizio io, ricociso. E praticamente lui è andato dove fanno i panini e ha chiesto di fare tre panini. E ha detto, quanto devo dare? No, niente, per lì è gratis. Non hanno fatto un bagaglio, uno che non ha bisogno, non lo vado di pagare, magari che fa bisogno non lo vado di pagare. Sì, non lo sai che così, lui l'avrei sciabonato proprio a lui. Era venuto per farsi propaganda elettorale, no? Mi pare della lista, non mi ricordo di chi. Però era venuto con queste due stangone, belle donne, alte. A fianco a lui tutti e due, una da una parte e dall'altra, e lui era tutto bello pimpante. Vedi riga che cosa, mi la botti in carriera. Scandaloso, e dimmi la botti, è scandaloso, è uno scandaloso, ma te parlano di 25 anni fa, tu un bel po' di tempo fa. Sì, un po' di tempo fa, non adesso, non è l'ultima volta, anche perché io sono un po' di tempo che non faccio servizio ambulante. E l'anno che praticamente hanno arrestato uno che stava sotto dei carabinieri. I carabinieri erano a fianco, c'eravamo tutti in fila, c'era l'ambulanza, i carabinieri, e no, dentro Land Rover, e Land Rover è la campagnola del registro di Pordotones. E questo qui si è avvicinato e ha segnato il carabinieri a metà di Lucas. Ha detto fammi le 2-3 euro, rischiano la vita, ma servire allo Stato, gli ha detto poco in faccia, questo carabinieri zitto, non faceva niente. Cazzo dice, ma perché cazzo non lo rubino l'attacca lui? E questo qui che a un certo punto ha preso una lattina, l'ha buttata in terra, e il carabinieri ha detto raccogli la lattina, che non sei in casa tua qua. Ehi, fammi le 2-3 euro, il servo dello Stato, ti fai vedere, non so che cosa la vedi, sono grandi battaglioni, i carabini hanno imbizzicato, hanno caricato in macchina, hanno fatto il burro, ma al montante, e ce l'hanno portato in caserma. Ha detto, non abbiamo fatto nulla perché c'era troppa gente, c'era anche sgravi, magari giornalisti, capito? Si tratta di un altro gruppo che aveva fatto la SUS. E niente, e poi ce l'hanno detto chi era. Te lo sapete chi è quello di no? Quello che ha fatto la rapina alle poste di San Giovanni. No, non lo sapevo questa storia. Non lo sapevo questa storia già. Sempre il giorno di Sgarbi. Sì, è il giorno che c'era Sgarbi, infatti non hanno fatto nulla, hanno fatto allontanare a lui prima, capito? Beh, per forza, per forza. Stai copiando bene già? Sì, perché? No, così. Hai cambiato apparecchio? No. Ho cambiato il microfono. Cosa c'hai adesso? Il Tanner. L'hai comprato? Yes. Non riesce bene. Positivo. È forte. Caspita, e poi con la voce torrente, pensavo che avessi qualche altro tipo di microfono addirittura. No, già rende bene. Andato tutto a prendere. Cosa già? Ho detto sei andato tu a prendere il Tanner. Sì, ieri sera. Perché a me c'era un affare che non piace, me lo guardo 2 o 3 volte ed è il Midland, quel primo che c'è in alto, quello bianco, quello che ha il microfono bianco, quello lì mi piace. Chiediglielo quanto lo dà, chiediglielo già. A me questo qua il microfono è nuovo. Sì, c'è tutta roba buona, Riccardino, c'è tutta roba buona. Sì, e poi si abbina bene al cavo del Tanner. Sì. Va bene. È un bel... Ma cosa hai preso? Il Super Sidekick oppure quello normale? No, il quello normale, il più 3. Cappagà. Va bene. Sei andato tu là, hai visto la riserva? No, ero in furgone e me l'ha portato fuori perché ero in fretta già. Ah, ho capito. Ma c'è una vita. Va bene. Si sta vedendo un po' di roba, ne hanno acquistato troppo, poi diciamo che ha smesso di modulare, sta entrando poco. Si sta vedendo quasi tutto. Sì, vabbè, da. Mi è arrivato a un certo punto a farti bene. E lo sai cos'è? Che ci carichiamo poi di roba e poi alla fine ci rendiamo conto che è troppo, capito? Siamo talmente presi che ci piace ancora, ce lo prendiamo, ci piace anche ce lo prendiamo, così ho fatto io. E ci ho preso un paio di rami, e in questa stanzione che ho ci ho speso un po' di su, un apparecchio solo ho pagato 450 euro. Sì, ma infatti bisogna prendere gli apparecchi, decidere quale prendere, tenerlo e poi fare delle prove. Uno può comprare microfoni, può comprare microfoni e basta. Uno può provarlo con microfono, provarlo con comparazione, queste cose qua. Magari fare modifiche in antenna, però le radio bisogna tenere quelle lì, perché se ti sta a riempire la camera di radio poi non ne togli i piedi. È una cosa disordinata, non dai retta a niente, perché poi non dai retta a nessuna radio e poi ti punti sempre con una. Davvero, io sempre col Galaxy, io ne ho tante, mi sembra, un punto sempre con il Galaxy perché è quella che mi piace di più. Ho visto che c'era un 140, ma consumato dove si aumenta il volume, dove Recent Power, anzi, consumatori, lo vorremmo a 380 euro, in perfette condizioni, tranne questa consumazione come si muove il vero slider, deve essere che invece che con l'unghia lo muovevano con tutto il dito e strisciavano, l'hanno consumato. Sì, 140, 380 euro vuole anche comprato e già. Lascia perdere, ho visto che ci sono anche i Saturn Echo, ci sono i Saturn Echo come il tuo a 350 euro li stanno vendendo, ma per carità, ciarlatani, sono ciarlatani, e c'è voi chi glieli compra, c'è voi chi glieli compra, ma come lo deve comprare un tipo di 140 e poi 380 euro, ma stiamo scherzando, ma che già va bene, già si udenini, poi vai, se trova lo stupido che lo compra, buon per lui, però sinceramente uno che posso essere io non ne prende proprio, ma proprio non lo prende neanche considerata una cosa del genere, ma non per tanto per il livello economico, è tanto per la presa in giro, mi segui? Sì, sì, infatti l'ho contattato e gli ho detto ma non è 2,50, no, mi hanno offerto di più, allora devi dirci. Ma infatti si lo tengono, ma se lo tengono, se lo vado in abbrudo. Poi la roba che vendono loro è tutta bella, tutta nuova, tutta fatta. Quella che c'è tu è mondetta, mi seguo per ragione questi imbecilli. Ma infatti, io ho messo il Ruiz in vendita, ma poi me ne sono messo tutti dall'ottobre. Questo qui io ho scritto che praticamente lo vendevo solo in Sardegna, non lo spedivo perché avevo paura che magari lo rubinassero nella spedizione, sai come fanno. Praticamente questo qui mi ha scritto quando mai io lo devo prendere a parecchio non spedirlo. Io faccio quello che vedo, tipo chi sei per dire cosa devo fare io, l'ho messo sotto queste cose qua. Se tu non ci stai a quello che dico io, ma sei sicuro che non lo puoi spedire? No, non lo possiamo vedere e vieni te lo prendo. Esatto, io fa quello che vuole con la propria attrezzatura. Già, forse la gente ho contattato io per prendere un attrezzo, volevo prendere una cosa che mi piace, però non fanno spedizione perché non si fidano dei corrieri, capito? Non fanno spedizione perché non si fidano dei corrieri, ma non perché c'è uno di fa il bonifico e te lo manda. No, non è quello il problema, però non si fidano dei corrieri, mi dicono guarda che se poi, perché se poi ti arriva l'apparecchio e tu me lo rimandi indietro perché ti ha fatto giustamente dando il corriere, io ti devo rendere i soldi, perché una volta che c'è di mezzo la banca, da lì non prendi, non scappi. Quando si fa il portatore su ciccia, casi vinto, si è vinto, però con la banca che posso appellare, metto un avvocato e sono problemi. Non è la prima volta che succede, non di a me personalmente, ma di persone che conosco, che è arrivata roba rotta, attrezzatura rotta, ho messo un avvocato e ci sono stati, questo tipo di 6 anni fa c'è stato anche un pignoramento da poco, quindi. Ok. Sì, ma poi ne ho anche la dimostrazione, ho tirato il mangime per i duri, mi fa la postina, ma scusi, ma che cosa ha ordinato? Farina, roba di nuovo, cocaina, detto, no, è mangime dei pappagalli, perché qua sta perdendo da ogni parte, che cavolo, l'hanno spaccato sotto e più ha la scatola rotta, aperta. Dice cosa facciamo, non rimaniamo indietro, e cosa rimane indietro che mi serve, se no cosa mangiano, e non ne vengono qua di quel mangimini, capito, è un casino, ho dovuto prendere lo stesso, meno male ci avevo un altro recipiente del mangime che avevo finito e l'ho travasato. Lo vedi, l'ho dovuto accettare perché altrimenti non mangiavano, però se tu, come ti ricordi quando ho spedito l'apparecchio o il continente a riparare che non si trovava, ti ricordi questa scena? Sì, io me ne ricordo. Secondo te se mi perdevano la radio così cosa dovevo fare io? Denunciarli, ma allo spedito diciamo i corrieri non gli fanno niente. I corrieri non gli fanno niente perché l'hanno poco perso e poi ne voglia tu di appellarti alle cose. Ti rimborsano 5 euro a chilo. Capito? Cosa ti danno? Ma che gli pesa 20 euro? Ti danno 20 euro, nemmeno. Infatti. adesso, vabbè, essendo un coso in plastica grossa, tipo quello del gelato però alto, per intenderci, l'hanno messo solo il cartone, l'hanno messo tutto il cartone, era giusto giusto il cartone, quindi l'hanno sbattuto, sicuramente gli è caduto la mano, come se lo lanciano, l'hanno spaccato perché è pesa 3 kg. Sì, sì, perché se lo lanciano, ho capito. Perché se lo lanciano, mi sto preparando il posto qua adesso io per mettermi il 3009. Per mettere il 3009, mi segui. E gli metto l'MB più 4. Però mi sto preparando il posto, ma voglio metterlo dentro il mobile, ma dove rimanga chiuso. M3009 non lo stai più usando? No, non lo stavo usando, però infatti me l'ho visto dentro il mobile, ho fatto perché non devo usare questa radio. Mi ho ordinato un commutatore 3-1, buono, e uso tutto con la Grazioli e con motore radio. L'avevo anche il computatore, poi è andato tutto in pista, ce l'avevo anche da poco tempo, avevo appena comprato, era ancora in garanzia, poteva farlo cambiare, invece di tirare tutto dall'incartatura, perché tutta la sera che cambiavo spezzoni, facevo peccato che avevo i crediti, ero nervoso, non mi ero mai dito. Alla fine poi ho detto, adesso non correvo in diretta, ho provato a collegare in diretta e la roba andava bene, e allora non è, e allora è rugoso, l'ho aperto non sembrava le alette, ce l'aveva tutte tranquille, non capivo cosa era, alla fine ho preso il ragionamento, ho detto non è un buon dubbio, vado in diretta. Lo so, però ogni volta stare a cambiare così, cioè con il PL, no, non mi va già, perché mi era successo un po' di tempo fa, caspita, la radio mi stava dando un po' di stazionarie, non queste, no, quando avevo il circolo, e c'erano il primo caldo dalla radio che si erano allargate le alettine dove inserisci il PL, e faceva tocca non tocca, e mi stava dando stazionaria. Dal giorno, poi avevo smesso, però se prendi un commutatore buono, 3-1 lo paghi 120 euro. Già lo so, io ho preso 30 giga a Fusaro, perché a Sassari non ce ne sono altri, e io ho preso quello 30 giga, pensavo che andasse bene. E quelli hanno il filo, hanno, ci vogliono quelli con la lamella. No, avevano le lamelle dentro. La novella? Sì, chi era? Propaganda. Attention my friend, Italy from Sardinia chiama. Ho preso di Zeni. Ma forte, mi sa, Tiago 7. È arrivato un attimo, mi sa, proprio la togliere lo scotch. Ma non è più capito. No, ma non si intende più. Ma io mi regalo lo scotch già quando, diciamo, quando prendo il copio. Chi mi interessa, poi l'altro lo filtro tutto. Ma diciamo che la propagazione a quest'ora è alta perché c'è silenzio. Sì, però quando sto facendo un questo, per esempio un questo con te adesso, intanto non è che chi deve entrare entra e lo sento uguale, per non prendere cose di fondo, queste cose qua, io filtro tutto, così, non ce l'ho più metti di scatole, mi segui. Poi io faccio il rem e non ne ho proprio nulla, è silenziosissimo, sembra che ci sia lo specchio inserito qua, non ne prende nulla qua il rem, parlo bene, a quest'ora no. Guarda, ce l'ho a 7 io qua. Ma lì è, secondo me sono i capi della patensione che ti disturbano, capito? Sì, vabbè, sono quelli sì, tu pensa la mattina, io dalle 7 alle 9 non posso accendere radio perché ho questo tipo di scariche strane, non ho capito il motivo già. L'uomo di corrente da tensione, queste scariche qui le fa la tensione. C'è qualche bambino vicino? Sì, ce l'ho a 30 litri. E allora, fidati che ci sono i trasformatori dentro che fanno casino. Sì, sì, ma lo so che è quello. Lo so che è quello, infatti a volte accendo la radio, la spengo perché mi salgo i nervi. Però con l'antenna a filare non la prendo quella roba lì, mi segui. Con l'antenna a filare non la prende quella roba. Lo so, sono più silenzioso, lo so. Comunque c'era un apparecchio oggi, l'ho visto su quelle cose dei radioamatori, quel sito dei radioamatori. E c'era praticamente anti-QRM. Era un apparecchio dove si attaccavano tutte le antenne, c'erano quattro attacchi di antenna e serve per eliminare il QRM. Sì, sì, no, ma c'è anche il DSP per il Kingwood che va bene, però adesso lasciamo così già, perché spendere non si può, mi ho preso questo Tanner perché mi volevo togliere il gusto, però no, basta. Per il momento abbiamo fatto. La verità di Tanner me ne interesserebbe un altro, da mettere a Superstar, però. Ma cos'è? Nero o grigio il tuo? Grigio. Appunto, diciamo quello originale, dai. Sì, sì, sì, proprio il Tanner originale, già. È quello grigio. Niente, gli ho messo anche una gomma a piuma davanti. Vabbè, il soffio. E ma basta una cosa velina, fina, come l'ho messo io, per il soffio. Già va bene, visto la macchina, come va bene. Certo che va bene, ti ha migliorato tantissimo. Sì, un antipoppo da 5 mm gli ho messo. Un antipoppo da 5 mm e niente, così togli anche anche la cosa del respiro e queste cose qua. Ma non è difficile da aprire il tunnel per arrivare alla capsula, quando si apre da davanti. Da dietro c'ha la vite, da dietro esce la capsula fuori, mi segue la mollettina. Ah, ecco. Io pensavo da davanti come c'è l'MV4 per dire che si apre davanti. No, dietro ha la vite, e molli con la vite lì ed esce la capsula da davanti, mi segue. Sì, è fatto un bel a prendertelo, dai, già va bene. Potenziometro, bene, funziona. Sì, già. È a 3 adesso, A 3. Va bene, tranquillo. Stai notando qualche difetto? No, te lo dico, perché io tutti quelli che ho avuto avevano difetti in potenziometro. Cioè, 1, 2, 3, 4 non andava, solo al massimo andava bene, basta. Si sentiva forte, però lo dovevi lasciare al massimo. Se lo volevi abbassare non potevi farlo, ecco cosa. E anche su presideri che avevo io un po' di tempo fa era così, Anche quello andava solo al massimo, è vero, solo al massimo, poi andavi a regolarlo e non faceva. Tutti così sono, c'è un difetto. Vabbè, se va bene è meglio così, hai fatto un acquisto ben fatto. Là. È un po' usurato, però già è nuovo, questo microfono finivano 40 anni e quindi magari qualche scheggetta ce l'ha, ma non mi interessa. Ehi, ma ne aveva tanti, no, potevi scegliere quello migliore. No, me l'ha dato lui, ma non mi interessa, va bene così, importante. Bah. No, è nuovo, va bene, non. Va bene così, vuol dire che mi voleva dare questo. Poi mi interessa adesso che mi funziona bene. Però se nuovo è meglio. Io l'altro, quello che c'è qui su Presidio, che l'avevo tutto quanto, mi era pensato, l'avevo tutto riverniciato, fatto bene. Non avevo una bizzica, niente, proprio fatto bene veramente. Cambiato il cavo, l'avevo messo quello morbido, perché c'era il cavo che era un po' scotennato, la guaina era tutta marcia. Sì, vabbè, già sono microfoni da fare, non è che stai comprando un microfono nuovo di pacca, mi sto facendo il banner, ma il MB+4 sto rifacendo come ce l'avevo prima, sto mettendo il braccio originale. Però sto guardando, non mi ritrovo le viti, forse le ho messe nella scatoletta, nella bustina in garage, le ho messe nella bustina, devo controllare in garage a vedere se sono lì. E poi a te va bene quel microfono, perché quei microfoni hanno la capsula metallica, che è da solo metallico, però siccome tu c'è la voce grossa, ti va benissimo. Eia, sì, ma sto parlando a voce bassa io, mica. Sto parlando molto voce bassa. Guarda, questa è la mia tonalità di voce. Questa è la mia tonalità di voce, sono a 50 cm dal microfono. Prova a metterla al massimo a vedere quanto può. Scusi, signor Franco, mi scusi. Cosa? Sono entrati da sorso a riprendermi. Sono a voce. Chiami a Franco qui, avanti Gianni per i saluti. Ciao Franco. Ciao Gianni, dai, buonasera. Ha diritto, a me c'è rivolto però, se no che mi sei tremolato il dito. Capito, se deve far sentire, se no sarebbe lui. Giusto. Vabbè, importante a me, va bene. Già va bene, capito, va bene. Buonasera Franco, buonasera e ben sentito. Caffa, buonasera anche a te. E allora, buonasera. Stiamo parlando con Gianni di Piedelmeno, e anche stanotte ci ritroviamo, Avanti Gianni. E poi adesso sono più tranquillo, dai. Meglio così, dai, che ci ritroviamo sempre la notte più tranquillo, più si può fare un discorso, se si apre un discorso si può fare, dai. Capo già, vabbè, diciamo che è importante, è cosa, forse è importantissimo dormire la notte, allora evita di venire anche qua. Vabbè, meglio così, che coraggio vuoi fare? Vabbè, ognuno si diverte come può. Ma certo. Ecco, ognuno si compra il gioco che gli piace di più. Avanti, capito? Sì, ma la notagata ne è feo per me. Lo so. Certo. E qualcuno anche avanti. Prima c'erano le spedizioni punitive, quando lo metteva la porta che andavano in greca, ricudiano la Zusa, e gli toccava nella Iana. Ricudiano la Zusa, era tutto di la Zusa, senza di più. Già, e di via lì, tanto non c'è più male. Io non metto, mi staccavo l'antenna del baracchino, non la rido, senza modulare, andava sotto un culo. Sì. Per vedere il segnale, se ti arriva a fondo scala senza antenna, vuol dire che... Ma non credo che indivi, e se no gli altri bugi, c'è un'antenna, una macchina con un'antenna lì, vuol dire che si è fuori scala. Una volta siamo andati da Don Diego, che entrava e parlava proprio sboccato, maleducato, tipo che era stato in galera, tipo immagina. Sotto casa sua, ha detto io farà giusto, e ci ha chiamato i carabinieri. È vero, lo cari dai, visto, quello lì era più furbo di voi. Poi stava con Faustino, quello finocchio di Sassa, e lo conoscevate, quel tipo bassottino che vestiva tutto bene con la cravatta, lui lo portava in giro, era il suo compagno. Capito, stava con questo qua, infatti era un bel ricco, l'ha ereditato case, campagne, mi dirò. No, io non lo conoscevo, non lo so chi è quello. servizio. Ha preso e voi le avete fatto la macchinatica. Cosa avevano detto i carabinieri dopo già? Che erano stati avvisati da questo signore perché dice che stavano andando a picchiare. Noi abbiamo detto no, stavamo andando solo a avvisarlo perché lui entra in frequenza, noi siamo dei, gli abbiamo raccontato tutto, che lui entrava e quello che diceva. E allora dice qua la cosa diventa penale, se si sente diventa penale. E potete denunciarlo per quello che dice, per quello che fa, alle scomposte. E infatti a lui non ci hanno fatto nulla, no, ma noi non abbiamo manco minacciato, abbiamo solo detto di scendere giù perché gli volevamo parlare, per dirgli di smetterla, capito? E poi lo vedi, quando va a cercarli, prendere, si nascondono dietro un bicchiere d'acqua, miserabili. Questo qui stava con Faustino, che era un tipo, un gobbetto, e diceva se non avessi avuto questo piccolo difettuccio sarei stato l'uomo più bello di Sassari, diceva tutti così. E usciva con la cravatta a cicca rossa, me lo ricordo ancora, tutte cravattate, tutti i grandi mirati in abito, e usciva con lui, lo portava a Plattamona, perché questo non ci aveva patente, gli aveva comprato la macchina e se lo portava in giro. A Plattamona. A Plattamona dentro. Monelli, Monelli, Monelli, Monelli. E va bene, va bene, va bene. Aspetta, la stessa parola si dice bene. Certi racconti dicevano la giungla prima, eh. Ascolta, tu a questo peppuccio l'hai conosciuto? No, non l'ho conosciuto già. Ma di Porto Torres? Ma non so se sia di Porto Torres, questa c'è un'imbarcazione. Una volta mi ha perseguitato, ero finuto. E ci aveva un po' di soldi. Un giorno mi ha perseguitato, mi ha detto ciao bello, ciao, dove vai? Se vuoi venire con me a una bella barca, ci facciamo una cena insieme. Ma ta via giù, date nati. Già, grande Lucy bisogna accudire subito. E mi stava rimorchiando, capito? Poi l'ho raccontato e una commessa ha detto, ah Peppuccio, guarda, sarà Ghi però una persona fenomenale, guarda, a me ci invita sulla barca, facciamo certe gite, andiamo con mio marito, ci toglie roba da mangiare, spumante, champagne, video guidate, c'è un po' di soldi. Poveri soldi che vuole, ma a me non me ne ha fatti tutti. Esatto, proprio di neanche voi, però a me ciao ciao non mi dica. Aspetta, ma sai quanti ce n'è così? Quella gente viziosa, amico, quella gente viziosa, quella gente viziosa, che ognuno dalla sua vita poi, per carità, può fare ciò che vuole dalla sua vita, non portate onda a farsi dal prossimo, perché così magari quando vedi iniziano a rompere le scatole, così stanno già dando fastidio. Però se due persone dello stesso sesso vogliono prendere, vogliono passare la loro vita insieme, se loro sono d'accordo che ben venga. C'è di peggio, però già, ma me ne parlate, non mi diano mai fastidio. Ma infatti, tu te lo ricordi da dove ci siamo conosciuti? Allo supermercato. Ah? Bimbo, questa cosa l'ho resettata, forse avevo nel cazzare dei granai, forse con l'antenna, avevo questa informazione dell'antenna. No, ci siamo conosciuti vicino alla Feni, al forno della Feni, però stavamo andando da un'altra persona tutti e due e ci siamo fermati lì a aspettare perché era chiuso. Nulla è saputo di questo. È vero, che io lo volevo contattare, sono andato lì per prendere, perché avevo un mixer in riparazione, ti ricordi? Sì, ed era chiuso, lui era andato a piazzare un'antenna nei bar, io dovevo fare controllare lo stereo perché non si accendeva, dovevo farglielo controllare. E niente, ci siamo conosciuti lì, anche lì mi sa viene di tu quelli cose. E l'hanno agganzato, i vizi. quelli sono invisibili. Riprendi fra. Io pensavo invece che vi eravate conosciuti a un altro posto, che c'ero anche io, invece no, è tutta un'altra storia. No, fra. A Gianni sì, è vero, io sono andato da questo qua perché avevo il mio mixer in riparazione e si era fermato lui. Stavamo parlando, poi ho visto l'antenna della macchina, te ricordi già? E io ti ho detto, tu mi hai detto, mio nonno mi aveva lasciato un appalicchio. E hai detto, perché non entri? Cioè, perché non c'è più nessuno, non è vero che non c'è nessuno. Tu entra dopo le 6:30, 7, qualcuno c'è sempre. E tu gli avevi la torretta da praticare. Esatto, e mi avevi venduto una LEM tu, un'antenna LEM che era 1,60, 1,80 era, e avevo un Intec 548 SX con un microfono, con il microfono della Intec, il 500, quello che dava l'eco, quello nero, con la scritta Intec rossa, sì, ci sono andato a Maraia, a modulare la notte, ti ricordi della macchina? Cioè, me lo ricordo, ci avevo messo anche il vignaretto. Sì, e il 747 avevo, poi da lì ho iniziato la mia esperienza in radio, sì, era proprio da lì, con un Intec, 40 canali, vai fra. Ormai da un poco, e vabbè, tutti così abbiamo cominciato con piccoli radio. Io la mia prima radio me l'aveva data un amico, che era il Faccio 2030, mai da un fondo, e ho cominciato a modulare. Poi di quello mi ho comprato l'FM 500S, ma ci ho comparato, microfono amplificato e vai. L'ho avuto anch'io, me l'hanno rubato alla macchina. Quello che mi hanno rubato dalla macchina era un altro tipo di radio, non mi ricordo, adesso non mi ricordo neanche, una fagliette, un 40 canali. A me mi hanno rubato la magnetica, mi hanno tagliato un filo e me l'hanno rubato, era sotto casa, parcheggiata la macchina, me l'ha regolato. E poi sotto casa di mamma invece gli hanno spaccato il vetro, la macchina, e adesso c'era il connettore, c'erano le bananine per staccarlo, e l'hanno praticamente tagliato il filo, l'hanno accorciato. Oh già, io avevo la 1 allora, che avevo, ed era a Marisa, e avevo la radio dentro la macchina, lo stereo c'era, e più c'era la base magnetica con l'antenna attaccata sopra la macchina, al centro cappotto c'era. Perché me ne avevo dato, non so se ti ricordi la 1 come era fatta, la 1,45. Dietro, dopo lo sportello, avevo la 4 sportelli, la 5 porte io ci avevo. Dietro c'aveva un finestrino piccolino, me l'hanno tolto intero, non l'hanno neanche spaccato. Dalla guarnizione l'hanno tolto intero, hanno aperto la macchina e mi hanno fregato, lo stereo, il baracchino, l'antenna l'hanno lasciata, la base magnetica. Forse si credevano che era fissa la cappotta. Se ne sono andati, erano legati l'antenna, ha detto beh, ha detto se mi hai buttato un viso, se mi hai fatto l'amplì. È triste. Vabbè, allora le rubavano un bel. Allora mi ha fregato. L'unica radio che mi hanno fregato. Sapevo che me l'aveva fregata, sono andato ai carabinieri, gli ho detto, ma tu dice, anzi io gli ho detto, guardi, me la vuole vendere questo qua, me la posso comprare? No, se lei la compra dice lo denunciamo con recettazione, anche va a fanculo, vai, lascia perdere, e l'ho lasciato perdere. Aspetta la radio 2 e ti denuncia con recettazione, poi è controlla lì là, e controlla lui, cazzo. I carabinieri a volte fanno dei cazzati, avanti. Sì, chiudi ex, e chiudi ex. Tino, Tino, Tino, buonasera, Tino, buonasera. È ben sentito. Vabbè, non è che sono i carabinieri che fanno le stupidaggini, è lo Stato, abbiamo le leggi che non servono, le leggi che non servono e ciccia. Aspetta, mi dicono che la roba, me la vuole vendita e se la compare c'è recettazione, cioè, ma te l'immagini, la roba mia. Ma questi, ma vabbè. Dice, adesso che siamo in Italia, noi in Italia siamo un po' di tempo. Per carità, proprio sono proprio le leggi, sono proprio leggi, ma non solo nel caso, non solo in questo caso, ma anche stranezze assurde, stranezze assurde. Buonasera Tino, ben sentito, ti rilancio Gianni per i saluti che farà girare per Franco di Sorso. Avanti Gianni. Ciao Tino, buonasera anche a te, dai. Oh Gabi, potevamo fare benissimo una cosa, farglielo comprare a lui, nascondersi quando glielo stava dando lui si gavare, e potevano fregarlo così, invece di, ma su queste cose deve essere, non si sprecano nemmeno a farle. Va bene, avanti di nuovo Franco. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. No Gianni, non è così. Se intervenivano loro, prendevano anche a me. Non è così facile, no Gianni. Avanti Tino, buonasera. Cappa, buonasera a tutti, dai. Sono entrato a salutarli. Ma io ti stavo chiamando da poc'anzi, ma forse non hai il telefono, potrò arrivare. No, ti ce l'ho caricando. Adesso lo prendo, riprenditi. Vabbè, volevo fare un'ulteriore prova che ho fatto una cosa, poi ti faccio sapere, dai. Vabbè, dai, continuate, sono in Corrix io. Puoi rimanere, Tino, non è un problema, eh. No, non voglio, devo fare delle prove, quindi non voglio stare lì a pensare a questo, ecco. Ah, chiappa, sì. Va bene, dai, niente di particolare. Finite le prove e siamo qua. Sì, anche perché una volta che ho regolato, poi magari mi date anche il vostro parere, dai. Ma vi, se puoi, solito canale. Sì, positivo. Gianni e Franco, scusate un attimino, ho 2 minuti e rientro qua. Con permesso, un attimino. Pago e pure, tranquillo, non acquisti greca. Capito già, non è così facile, no, perché loro mi hanno detto, se lei, perché io gli ho detto all'inizio, gli ho detto guardi, questo tipo che mi ha rubato la radio me la vuole vendere, me la vuole, magari questo qua, questo ragazzo non sapeva che la macchina era la mia, capito? E quando si è avvicinato gli ho detto sì, ho detto se è roba buona io te la compro, però ho detto adesso non c'è soldi, gli ho detto vieni domani. Io nel frattempo, subito, sono andato ai carabinieri, gli ho detto, dice, non faccia quell'azione perché dice noi lo dobbiamo denunciare per recettazione. Ma d'accordo con loro si nascondevano quando vedeva che tu stavi comprando cose, lui zigavano, capito? D'accordo con loro, perché la Vespa ti hanno rubato, l'amico mio hanno fatto così. Lui è andato con le 150 euro per ridargli la Vespa, come gli hanno chiesto. Però c'erano i carabinieri nascosti, come lui è andato a farsi far finta di dargli i soldi, sono arrivati i carabinieri e l'hanno bizzicato. A me mi hanno detto al contrario, mi hanno detto. Infatti non l'ho rischiato, per un baracchino che costava, per dire, allora costava 20.000 lire, 30.000 lire, non l'ho rischiato e poi sono andato e mi ho comprato un baracchino.